versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, caro ascoltatore di Radio 24, sono le 16:37 minuti, 15, lasciamo perdere, cioè, vabbè. Oltretutto stamattina, se qualcuno avrà sentito, mandano anche in onda su Radio 24 uno spot a favore dello sciopero pubblico della CISL. Ma come giornalista mi dissocio. Ma comunque, detto tutto questo, allora, tema della giornata, se volete chiamateci 800 24 00 24, è una storia su cui vale la pena riflettere, è una storia che mi è venuta sotto l'occhio per la seconda volta da qualche settimana ed è una storia incredibile perché dimostra come in Italia tutti diciamo semplificazioni, la politica si gonfia le gote con il termine semplificazione, ma nella realtà continuiamo ad fare i conti con delle cose a volte incredibili. Allora, è la storia di un'impresa, ma nelle stesse condizioni di questa impresa, una società di ingegneria, ci sono altre 6.000 imprese analoghe nel nostro paese, che per via di una legge fascista, nel senso che risale all'ordinamento del ventennio fascista, abrogata nel frattempo, ma abrogata per modo di dire, perché naturalmente non ci sono i decreti attuativi, continua a essere sottoposta ai vincoli della legge fascista e per questo ha danni, ha dovuto cedere delle cose, rischia di chiudere e tutto questo malgrado si sappia pubblicamente che è un paradosso assoluto, perché la legge fascista nel frattempo è stata da anni modificata, eppure da anni le imprese che hanno preso sul serio lo Stato e il legislatore e che si muovono in conseguenza dell'abrogazione, a quel punto arriva il giudice di fronte a un concorrente, di fronte a qualcuno che eccepisce, e il giudice dice ragazzi miei, io che devo dire? È una storia paradossale che può e deve raccontare solo colui che, essendoci implicato, coinvolto con la sua società di ingegneria, ha deciso di farne una battaglia pubblica e secondo me gli va reso anche merito e va ringraziato. E con noi l'ingegner Mauro Esposito, che è appunto titolare della ME Studio SRL, è chiaro che ME sono le sue iniziali. Mauro Esposito, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi, buonasera. Allora, spiega un secondo a chi non è un addetto ai lavori, non è un ingegnere, non è un esperto di committenza pubblica e privata, in che cosa consisteva questa legge dell'ordinamento fascista, quando è stata abrogata, perché, che cosa vi vietava di fare e che cosa la nuova legge in teoria vi consentirebbe, anche se poi si scoprirà nel suo racconto che non è così? Allora, la legge è una legge del 1939, una legge fascista che emanò appunto Mussolini, e questa legge fu emanata sostanzialmente per evitare alle comunità ebraiche in quel periodo di costituirsi in società appunto e svolgere l'attività professionale che era in quel momento storico tipico del singolo professionista, ingegnere o architetto. E quindi nel 1939 la legge 1815, in particolare l'articolo 2, vieta di costituirsi non solo agli ingegneri e agli architetti, ma a tutte le professioni, certo, cosiddette nobili, vieta la possibilità di costituirsi appunto in società per svolgere attività professionale. Evidentemente in quel momento storico, in quelle condizioni, poi insomma, chi comandava decise così. Eravamo poi a pochi mesi dalle leggi razziali, esatto, del 38 e così via. È quella stata considerata legge razziale, infatti più di una, diciamo, di una rivista o di una pubblicazione l'ha definita una legge razziale, che effettivamente poi nel 1997 fu deciso di abrogare, anche tra l'altro dietro sollecitazione dell'Europa, perché in, certo, realtà era assolutamente improponibile pensare ad una legge che vietasse alle professioni, ma in particolare agli ingegneri e agli architetti, di svolgere attività professionale sotto forma societaria, che è la forma peraltro unica possibile per operare all'estero. Già. Sì. Quindi abbiamo, questa legge è stata abrogata nel 1997, anche se in realtà già dal 1994 le società di ingegneria potevano operare, perché era stata emanata dall'allora ministro Merloni, insomma, una normativa sulle opere pubbliche, pertanto le società di ingegneria già si potevano costituire, ma vigendo ancora quel divieto dell'articolo 2 della legge 1815, pur essendoci una nuova legge che permetteva lo svolgimento dell'attività professionale sotto forma societaria, vi era una contraddizione, pertanto si era interpretata la norma Merloni come possibile solo per i lavori pubblici. Ma nel 1997 viene proprio un laconico articolo che dice proprio l'articolo 2 della legge 1815 è abrogato. E quindi a quel punto non vi si consentiva di lavorare non solo per il pubblico ma anche per il privato. Assolutamente, ma fu anche emanata una seconda legge, la Merloni Ter, che disse questo: mentre la Merloni diceva ai fini della presente legge le società di ingegneria, quindi essendo la Merloni una legge dedicata ai lavori pubblici, era chiaro che ai fini della presente legge le società di ingegneria potevano quindi lavorare nelle opere pubbliche, la Merloni Ter cancella i fini della presente legge e pertanto, tra l'altro successivamente all'abrogazione della norma, dal 97 in poi non c'è più stato, anche prima, ma in particolare dal 1997, nessuno ha neanche mai immaginato che le società di ingegneria non potessero operare. Tra l'altro una piccola considerazione, perché qua entriamo in un campo complessissimo, ultimamente ci sono state delle corporazioni lobbistiche che hanno tentato di sostenere che il giudice forse aveva anche ragione, ma queste corporazioni cosa dicono? Le società di ingegneria non possono lavorare per il privato, possono solo lavorare per il pubblico, ma per chi è un po' del settore è una contraddizione unica, per n ragioni. La prima: se una società ha i requisiti per lavorare per il pubblico, ha maggior ragione li avrà per lavorare per il privato. Primo. Secondo ragionamento: l'unico ente appaltante che può porre delle condizioni, dire non so, io faccio solo lavorare tutte le società di capitali che hanno almeno €1 milioni di capitale versato, è il pubblico. Quindi mi aspetterei eventuali contestazioni circa il fatto che le società di ingegneria possono lavorare per il pubblico e non per il privato. Che senso ha sostenere il contrario? Cioè, un privato deciderà bene a chi dare il lavoro lui indipendentemente dalla forma societaria. Però fatto sta che ci sono delle sentenze del Tribunale di Torino che danno ragione a chi dice no, signori, l'abrogazione senza strumenti attuativi non vale, quindi continua a valere la legge fascista. In realtà, c'è una sentenza, ci sono diverse cause, ci sono tre sentenze, una già appunto passata in giudicato in primo grado, che è la mia, che è quella della nostra società, che dice questo, sì, dice in modo un po' anche strano, anche perché tenete conto che questo ce l'hanno spiegato bene gli avvocati e i giuristi e soprattutto i parlamentari che ci stanno dando una grandissima mano a risolvere questa vicenda, ma un'abrogazione tout court, che dice l'articolo 2 della legge 1915 abrogato, ma che decreto attuativo ha bisogno cioè cosa deve attuare il decreto attuativo? Cioè, non è, anche questo è assurda questo. Un decreto attuativo serve eventualmente quando io emano una legge che ha bisogno di essere poi regolamentata, non so, istituisco un organismo di un certo tipo, il regolamento attuativo mi dirà come farlo funzionare. Ma quando una legge abroga un divieto, come in questo caso, il divieto abrogato appunto, che decreto attuativo deve uscire? Per dire che, cioè, non riesco a capire nella legge dove dice l'articolo 2 è abrogato, punto, il decreto attuativo che cosa può aggiungere in più? La disciplina delle conseguenze, perché nell'evoluzione del nostro ordinamento in questi ultimi decenni, poiché la materia di cui trattava era una limitazione di facoltà operativa verso il solo ambiente pubblico, questo la fa ricadere in un ambito, glielo dico perché ho approfondito anch'io la faccenda, nella quale l'evoluzione del nostro ordinamento bizantino negli ultimi 20-25 anni ha preso come regola, sia pur non scritta in nessuna gerarchia delle fonti, che un'abrogazione da sola di una norma che riguarda diritti in prima esclusivamente attribuiti in un rapporto con il pubblico ha bisogno di una norma attuativa per disciplinarne le conseguenze. È un classico delirio bizantino italiano che ci dà semplicemente conto del fatto che il legislatore, se pensa di aver innovato votando in Parlamento l'abrogazione di una legge, si dimentica che nel frattempo gli alti vertici della pubblica amministrazione italiana, con questa interpretazione evolutiva della necessità di decreti attuativi che scrivono i tecnici, gli alti burocrati pubblici, non li scrivono più a quel punto i parlamentari, ecco, l'alta burocrazia pubblica si è costruita l'ambito attraverso il quale esercita la facoltà legislativa vera nel nostro paese. Questa è la mia interpretazione, avendo dato anche un occhio ai documenti della sua sentenza. Io lo trovo, per questo a maggior ragione, un caso pazzesco. Pazzesco perché noi stiamo parlando di un'abrogazione avvenuta 20 anni fa e poi ribadita ufficialmente 17 anni fa, e a oggi i giudici dicono no, quell'abrogazione non c'è mai stata perché manca il decreto attuativo. Quindi la società dell'ingegnere Esposito, se ha fatto cose con i privati, quelle robe non valgono, decadono, quei lavori li perde, si troverà esposta a un danno, e se ha lavorato all'estero con privati, idem, e così via. Ma vi rendete conto in che cacchio di paese viviamo, con questa foresta di signori burocrati che impongono il fatto che decidono loro, anche quando un Parlamento e la politica hanno capito che è una norma fascista sbagliata? Ecco, questa è la realtà. È la realtà che io poi, guardandola, racconto a tutti, perché molti dicono adesso, arrivano sms in genere che dicono ma perché parlate solo di problemi di impresa e non di problemi della povera gente? Perché se gli studi ingegneristici chiudono o decadono per i danni a cui sono esposti per sentenza del giudice, pensando di aver lavorato del tutto legittimamente anche con i privati, e poi nel frattempo devono buttare fuori la gente, perché stiamo parlando, in quelle 6.000 imprese di cui stiamo parlando di 250.000 persone che ci lavorano, voi capite che accettare l'idea, come adesso vi spiegherà l'ingegnere, che ha dovuto vendere una cosa all'estero, rinunciare a dei dipendenti, buttare la gente per strada, in questo caso neanche perché la legge è sbagliata, ma perché un giudice dice no, guardate, qui la prassi è che ci vuole il decreto attuativo del burocrate, se no non posso dirvi nulla, andate per strada. Ma che giustizia questa? Questa è la follia di un paese in cui la giustizia e diritto è, ripeto, nelle mani non più del legislatore, ed è così in ogni ambito della vita italiana, a cominciare dal diritto tributario. Scusate la tirata, ma per farvi capire che non stiamo parlando dello studio e della società professionale dell'ingegnere Esposito, stiamo parlando di un problema gigantesco, cioè di questa selva di diritto che non risponde neanche agli indirizzi della politica, sui quali si può discutere, ci si può dividere, poi si vota, ma qui stiamo parlando d'altro, dopo che si è votato, 20 anni dopo, e come se non si fosse mai fatto. E questo non è diritto, è negazione elementare del diritto. Strada, va, siamo in ritardo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta a 16:50, primi 26 secondi. Una risposta anche a molti ascoltatori che sono stati un po' travisati, perché all'inizio noi abbiamo ricostruito la storia di questa norma fascista del 39, che fu un'emanazione conseguente alle leggi razziali. Perché? Perché vietando alle società delle libere professioni di operare con privati, poiché in quelle libere professioni c'era un'elevata percentuale di appartenenti alla confessione ebraica o di ascendenza ebraica, quel limite era per mettergli per così dire i bastoni tra le ruote nella loro vita professionale. Non c'entra niente col fatto che l'ingegnere Esposito sia a oggi ebraico, cristiano, cattolico o di qualunque altra confessione e ascendenza. Quella era la storia della norma. La norma dice semplicemente che le società professionali non potevano lavorare con i privati, che capite bene, possono lavorare solo con il pubblico. Il pubblico all'epoca avrebbe scelto in quali società c'erano ebrei o meno, e i ebrei andavano per strada. Ecco, questa è la storia di questa società. Allora, la conseguenza di questa norma, che sia pure abrogata da 20 anni, continua a vivere. Qual è rispetto ai posti di lavoro e alle attività che sviluppate? Beh, immaginate che questo io ho svolto un'attività professionale per un progetto di fatto di uno sviluppo immobiliare abbastanza grande, e dopo averlo completato il cliente decide di non pagare, come purtroppo spesso accade in questo periodo, e praticamente io ho fatto decreto ingiuntivo, ho presentato un decreto ingiuntivo al tribunale per essere pagato della somma che mi spettava. Il tribunale ha sentenziato che, oltre a non spettarmi niente, io devo restituire tutto quello che ho incassato. Ma non solo. Lei ha lavorato e deve pagare. E devo tornare. Ma non solo, mi hanno anche spiegato che io devo mettere un fondo rischi pari al fatturato degli ultimi 10 anni. 10 anni. E certo, perché la sentenza ha validità retroattiva 10 anni, quindi fino al 2004. Pertanto oggi tutte le società che hanno operato dal 2004, diciamo, fino ad oggi, hanno il rischio di dover ripetere queste somme e restituirle al committente, perché i contratti sono nulli. Attenzione, non è nullo il lavoro, perché questa è la cosa assurda. Cioè, il lavoro è corretto, cioè è stato fatto, non è che annullano il progetto, ci cancellano. No, no, il proprietario dell'immobile che ha avuto il progetto, ha costruito l'immobile, adesso può vendere, anzi lo ha venduto, lo sta vendendo, è tranquillo. Noi che abbiamo progettato, e ripeto, questo è un intervento veramente grande, parliamo di somme che ci hanno veramente messo in crisi, dobbiamo restituire anche le somme. Noi non lo abbiamo evidentemente fatto, la restituzione, già eravamo in crisi senza incassare il denaro. Però in teoria è un'obbligazione che pende sul vostro capo. Ma cioè, non è che è un'obbligazione, ci hanno pignorato gli uffici, i conti correnti, come sentenza è un'obbligazione con titolo esecutivo, ovviamente. È un titolo esecutivo che loro hanno assolutamente esposto e noi in questo momento siamo con la sede pignorata, ma non solo, noi avevamo una società, come diceva lei prima, di ingegneria anche in Oman, peraltro società che si è potuta costituire in Oman solo e soltanto perché avevamo una società di ingegneria italiana di almeno 10 anni di iscrizione alla Camera di Commercio, altrimenti non era possibile. Quindi noi ci siamo iscritti e siamo riusciti ad ottenere tutte le qualifiche in Oman, ma purtroppo, essendo illegali in Italia, siamo stati messi sotto pressione, abbiamo dovuto cedere la società, con una perdita di fatturato di circa 12 milioni di euro, con una perdita di forza lavoro di almeno 50 posti di lavoro, ma più ulteriori perché avevamo vinto molte gare, quindi possiamo dare prova, potevamo assumere altre almeno 50 persone, quindi per noi è stato devastante e lo è tuttora, non abbiamo neanche più soldi per pagare le tasse, perché da resto io ingegnere, io non so cosa dire, cioè io trovo che di fronte a cose di questo genere, che ripeto, qui non si tratta di fare una battaglia per gli ingegneri sì e per gli altri no, qui si tratta di violazioni patenti di diritto, capite, di gente che deve restituire per lavori che ha fatto, di posti di lavoro che spariscono per una roba che, ripeto, a chiunque spiegata farebbe semplicemente cadere le braccia e dice ma com'è possibile, la norma è abrogata, eppure questa è l'Italia. Allora io mi auguro, per concludere, che davvero i politici in campo risolvano, è già passato fin troppo tempo per i miei gusti da quando lo hanno assicurato all'ingegnere Mauro Esposito, ma rifletteteci tutti quando vi dicono che stanno semplificando, questa continua a essere l'amara realtà italiana. Continuate con la 24 e soprattutto domani dalle 10 alle 12 i conti della Belva con Mario Seminerio, Carlo Alberto Cannavale Maffè, me e Francesca De Rugia. Domani mattina. La versione di Oscar.